cercato, a chi ti ha perso ho ritrovato, a quelli che si trascinano dentro parvenze di vita che non hanno senso, a quelli che non hanno avuto tempo. E tu lo sai quanto è poco il tempo, a quelli che pregano piano nel buio di certe stanze vuote, a chi ti chiede ancora perdono, tu dagli perdono, fagli sentire che ci sei in questo mondo che a volte noi non capiamo, e fagli sentire com'è ancora dolce ascoltare la sera che arriva senza presagi o paure, perché ho una certezza, un pensiero felice, tu per sempre solamente tu. Passami accanto mentre sfido la notte, quando cerco lontano di scoprire qualcosa che la mente non può spiegare. Questa danza tua dolce della vita che muta al suono delle stagioni, del mio corpo che invecchia già. Nobody, not the trouble I see, nobody, no, my sorrow plays you. Que mon chagrin.